senza gasto. Catarina, ti calmuso stamattina. Se te vedo sta sicuro, farò sempre il muso duro. Cosa mai che ho cambiato da quel dì che t'ho sposato? Ti piga a cambiare il cervello, ti con tutte ti fa il bel. Si fa pur quel che te par, ma non starne più a toccar. Va la pegnara il morbin, Cattina non farla sciocca. Oh mamma, Toni me tocca. Oh mamma, ma chi te tocca? Va la pete don Pappin, da farte vedere le stelle. Cattina ti sei crudele, e il mio amor ti sei sempre ti. Catarina non volar Toni, tientelo stretto, tientelo stretto. Guarda, guarda che bel duetto, a Venezia si sigarà. Non guardarmi Catarina con quegli occhi da faina. Ma una volta per sti occhi ti cascavi ai me venoci. Titi sa, son gondoliere, go da far il me mestiere. Va la vegnara il morbin, Cattina non farla sciocca. Oh mamma, mamma, Toni me tocca. Oh mamma, ma chi te tocca? Va la vegnara un putin e avremo una compagnia. Se è vero, Cattina mia, che un Tonin titi me farà. Catarina, Tonin e Toni, in gondoletta passa il traghetto. Guarda, guarda che bel terzetto, a Venezia se sigarà. Va la vegnara un morbin, Cattina non farla sciocca. Oh mamma, mamma, ma chi la tocca? Va la vegnara un putin e avremo una compagnia. Se è vero, Catina mia, che un Tonin titi me farà. Quando un giorno dirà papà, quando un giorno dirà mamma.